Io ho seguito il primo caso a Bologna di scioglimento dell'Unione Civile, di un'Unione Civile stipulata all'estero, perché appunto sono entrate soltanto da 2 anni in vigore qui in Italia e appunto la mia cliente aveva già contratto un'Unione Civile all'estero. Però avete riscontrato dei problemi, diciamo, di ordine burocratico? Sì, nel senso che ovviamente insomma siamo stati tutti presi dal fatto che adesso insomma si possono contrarre le unioni civili, nessuno però ha pensato, comunque non ancora, al fatto che inizieranno anche adesso gli scioglimenti. Quindi i primi problemi burocratici ovviamente si sono riscontrati con i primi adempimenti, infatti appunto i comuni non sono ancora predisposti per quanto riguarda i moduli, che è il primo adempimento richiesto dalla legge Cirinnà. In particolare appunto ci puoi spiegare il procedimento che prevede la legge Cirinnà? Sì, allora il primo adempimento che richiede la legge Cirinnà è quello appunto di comunicare all'ufficiale di stato civile la propria volontà di sciogliere l'unione, poi appunto l'ufficiale di stato civile compirà gli adempimenti successivi. Decorsi 3 mesi dalla dichiarazione insomma di volontà all'ufficiale di stato civile, potrà essere depositato il ricorso in tribunale. In questo momento, almeno per quanto ne sappiamo noi, il comune di Bologna non ha ancora predisposto insomma i moduli o comunque le formalità, ecco, per raccogliere questa dichiarazione. Che io so che in altri comuni insomma questo adempimento è già possibile farlo tranquillamente, anche perché, se non ricordo male, c'è stata già una sentenza su uno scioglimento di unione civile in un'altra città, quindi sicuramente questo adempimento l'avranno fatto correttamente. E in assenza di appunto di queste carte, di questi moduli, come si procede? Ma come abbiamo fatto noi, non avendo potuto adempiere a questa formalità, abbiamo chiesto direttamente appunto all'autorità giudiziaria di ordinare all'ufficiale di stato civile di raccogliere la dichiarazione, quindi sarà l'autorità insomma giudiziaria a subentrare a quello che non ha fatto insomma l'ufficiale di stato civile. Che poi non è che non ha fatto l'ufficiale di stato civile, è semplicemente il comune che ancora si deve organizzare, ecco, per raccogliere lo scioglimento degli unioni civili. Quindi comunque c'è un passaggio, diciamo così, in tribunale? Sì, assolutamente. Noi avvocati possiamo depositare il ricorso in tribunale, quindi decorsi 3 mesi dalla dichiarazione di volontà. Ricordiamo appunto magari anche gli ascoltatori invece quali erano i diritti che riconosce l'unione civile, magari anche in relazione invece a quelli che riconosce il matrimonio. In realtà ormai l'unione civile è pressoché paragonata, diciamo, al matrimonio, tanto che viene riconosciuto, per esempio, nel caso dello scioglimento anche il diritto agli alimenti, come accade appunto nel divorzio. Una delle grandi differenze è il fatto che non c'è l'obbligo di fedeltà, nel senso che noi nel matrimonio abbiamo l'obbligo di fedeltà, nell'unione civile no, quindi insomma è quasi come a far pensare che il legislatore ha ritenuto meno importante quella che poteva essere una coppia omosessuale, il rapporto all'interno di una coppia omosessuale rispetto a una coppia appunto eterosessuale. Sul piano giuridico questa cosa incide tantissimo, perché come sappiamo nel divorzio, in caso di infedeltà, ci potrebbe essere appunto l'addebito del divorzio appunto. Conseguentemente, non essendoci nell'unione civile, non può esserci l'addebito. Una cosa che non contempla la legge, insomma ce lo ricordiamo, è la stepchild adoption, però può succedere che famiglie, esatto, appunto abbiano anche dei figli. In questi casi, in caso di separazione, come funziona? Sì, in realtà la giurisprudenza ha già cercato di risolvere quella che è una grossa lacuna all'interno della legge Cirinnà, tanto che è stato già riconosciuto da più sentenze il diritto del compagno appunto di un partner di adottare il figlio dell'altro partner, quindi, ed è in questo senso che noi appunto chiamiamo stepchild adoption, proprio perché è l'adozione del figlio del proprio partner. Quindi in caso di separazione comunque la questione degli alimenti riguarderebbe anche il figlio del partner? Sì certo, ma quello a prescindere, quello vale anche nelle coppie di fatto, l'interesse primario del minore, quello è sempre posto al centro dell'attenzione insomma della giurisprudenza, quello non c'è dubbio, ovviamente non c'è dubbio. Nel momento in cui viene riconosciuto come figlio, comunque viene adottato dal partner, a quel punto allora sarà un genitore a tutti gli effetti. Ultimamente è proprio recentissima una sentenza di un tribunale, adesso non ricordo bene se di Livorno penso, in cui ha riconosciuto addirittura la trascrizione in un atto di nascita dell'altro genitore, quindi come se fosse veramente come se il bambino avesse o due padri o due madri, ecco.